Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Jim portò Jules e Kate in un ristorante del Quai Voltaire. Fu un pranzo senza formalità per festeggiare il loro matrimonio. E ognuno si compose un menù secondo il suo estro. Kate portava un abito a righe multicolori. Jules si mise a parlare con Jim di fatti letterari che interessavano loro due e che non potevano interessare Kate. Jim cercò di riportare la conversazione verso Kate. Niente da fare. Jules era lanciato e dal suo punto di vista Kate, in quanto moglie di uno scrittore, era tenuta ad appassionarsi a tali argomenti. Kate aveva il suo sorriso arcaico e gli occhi bassi. A che pensava? Jules era simpatico con Jim, ma sacrificava inutilmente Kate, perché avevano già avuto delle belle conversazioni a tre. E invece il mite, il modesto Jules, aveva assunto la presidenza e la teneva al di là di ogni previsione. Sembrava quasi che volesse ammaestrare Kate. Jim si ricordò della serata in cui Magda si era ribellata. Kate non poteva tollerare quel Jules, pensava Jim, e in confronto a Magda disponeva di ben altre armi. Come poteva Jules mancare a tal punto di lucidità? Come avrebbe reagito Kate? E il loro amore? Jim soffriva per entrambi. Alla fine di quel lungo pasto, Kate propose di andare a passeggiare lungo la Senna. Costeggiarono l'antica chiusa del Monet, risalendo la riva di fronte ai giardini del Verialon. Jules non smetteva di parlare. A un tratto Kate lasciò cadere la borsetta e i guanti, scostò piano Jules e Jim e saltò a piedi uniti nella Senna. «Oh, my prophetic soul!» gridò una voce dentro Jim, mentre in cuor suo mandava a Kate un bacio invisibile. Quel tuffo gli si impresse negli occhi, tanto che il giorno dopo lui, che non disegnava, ne fece un disegno. Fu percosso da un lampo di ammirazione. Quella, almeno, non aveva paura di fare la speciale. Jules sembrava sotto l'effetto di una doccia gelata e tremava per la vita di Kate. Jim era tranquillo. Aveva visto lo stile del tuffo e aveva sentito parlare della sua bravura. Mentalmente nuotava sott'acqua con lei e con lei tratteneva il respiro per poter tornare a galla il più tardi e il più lontano possibile, perché Jules si spaventasse a dovere. Il cappello di paglia di Kate galleggiava solitario seguendo la corrente, con sopra lo spillone di smalto che le aveva regalato la suocera. I secondi passavano. Jules si voltò verso Jim, credendo Kate perduta. Jim gli fece segno di aspettare e dopo un attimo gli additò a 30 passi da loro una testa bionda che emergeva, virava e nuotava verso riva, col suo sorriso immutato. Si avvicinava a fatica e gridò «Il vestito mi impaccia, aiutatemi!» Jim saltò su una barca, ma era legata. Non nuotava bene abbastanza da poter aiutare una Kate e non pensava che lei avesse davvero bisogno di aiuto. Si mise a correre togliendosi il grande impermeabile, si chinò e lo fece pendere quasi a toccare l'acqua tenendolo per una manica. Kate riuscì ad afferrarlo. Dall'alto della banchina Jim la trascinò controcorrente fino alla barca come un pesce verso la rete. Kate si tirò su, salì allegramente la scaletta di ferro e si scrollò l'acqua di dosso come un cane bagnato. Tremava dal freddo. Jules l'avvolse nel suo soprabito. Jim corse a cercare un taxi, ci spinse dentro i due sposi, sbatté lo sportello, diede l'indirizzo al tassista e se ne andò per la sua strada. Il giorno dopo trovò Jules pallido, silenzioso, meno sicuro di sé e più bello. Kate aveva l'aria modesta di un giovane generale dopo la sua campagna d'Italia. Nessuno di loro parlò del tuffo. Arrivò la madre di Jules e lei, Jules e Kate, fecero insieme il giro della Francia. Come andò? Poterono raccontarlo a Jim solo molto tempo dopo. L'appartamento di Jules fu messo in vendita, i mobili spediti in Germania, a casa loro. Vissero nel loro paese in una piccola casa in riva a un lago. Nacque una bambina. Jim, che doveva essere il padrino, si preparava a partire. Tre giorni prima scoppiò la guerra e li separò per 5 anni. Riuscirono a malapena a far sapere l'uno all'altro attraverso un paese neutrale che erano ancora vivi. Jules era sul fronte russo. Era improbabile che si incontrassero. ...1914, guerra. 1920, lo chalet. 1919, la pace. La loro corrispondenza riprese. A tutte le domande di Jim, Jules rispondeva «Venite a vedere». Era nata una seconda bambina. Jim scrisse a Jules Ditemi, devo sposarmi anch'io? Devo avere dei figli? Ancora una volta Jules rispose: venite e giudicherete voi stesso. Kate aggiunse qualche parola di invito. 6 mesi dopo, Jim partì per il paese di Jules. Rivedere Jules era un tale avvenimento per lui che lo ritardava. Fece un giro sul Reno, fermandosi in parecchie città. Arrivò il giorno. Jim aspettava Jules in una sala al pian terreno e per arrivarci Jules doveva attraversare un grande spiazzo erboso. Jim lo scorse da lontano. Veniva avanti a passetti strascicati, pensoso, come stanco. Eccolo lì, dunque. Aveva una moglie, 2 figlie, s'era fatto tutta la guerra e adesso si avvicinava. Avrebbero potuto non rivedersi. Jim lo guardava. Quando fu proprio vicino, Jim uscì di corsa, si abbracciarono 4 volte e ripresero la loro grande conversazione interrotta. Si trovarono maturati, ciascuno nella sua direzione, ma non cambiati. Trascorsero insieme 2 giorni interi davanti a tavoli quadrati di legno spesso, fumando lunghi sigari. Ognuno di loro raccontò all'altro la sua guerra. Jules evitava di parlare a fondo della sua vita familiare. Jim ebbe l'impressione che non tutto andasse per il meglio. Il giorno seguente, Kate aspettava Jim al cancello della piccola stazione, insieme alle 2 figlie. Jules era andato in città, intenzionalmente, a vedere il suo editore. Kate era fasciata in un vestito di tela bianca, aveva i capelli raccolti in una reticella bionda e alle orecchie 2 perle di avorio levigato. Jim la vide e ne fu come stordito. Kate era diventata una donna splendida. Il sorriso arcaico vibrava ancora più netto e scoccava frecce. Lo sguardo cantava di fantasia e audacia contenute. Il busto era come una carena che tagli l'acqua. Le sue mani di razza tenevano ciascuna la mano di una bambina. La maggiore, Lisbeth, somigliava a Jules, con qualcosa di più olimpico. La minore, Martine, somigliava a Kate. Kate gli disse: «Buongiorno, Jim». La voce grave si accordava col resto. A Jim sembrò che arrivasse con un lungo ritardo all'appuntamento del caffè e che si fosse vestita per lui. Kate condusse Jim al loro chalet rustico in mezzo a un parco naturale di abeti e di pendii erbosi. Avrebbe mangiato sempre a casa loro e avrebbe dormito nella vicina locanda. Incominciò per lui una settimana di fiaba. Jules andava a portargli in camera ogni mattina una bottiglia di caffè latte, fette di pane imburrato e sigari dolci per la loro conversazione. Jules stava scrivendo un bel libro. Aveva l'aria di un monaco. Non dormiva nella stessa stanza di Kate. Lei lo trattava con gentilezza e severità. Jules lasciava che Jim scoprisse un po' alla volta. Sì, era vero. Il fiore dell'amore era impallidito fra loro. Jim non ne fu sorpreso. Si ricordò degli errori di Jules con Magda, con tutte. Sentiva che Kate era terribilmente esigente. Alcune cose le intuì, altre le seppe da Jules. Kate non era più pienamente la moglie di Jules e aveva avuto degli amanti. Jim provò una grande tristezza per Jules. Quella biondezza che aveva tanto sognato di avere accanto e da cui era quasi del tutto escluso. Pure Jim non formulava giudizi. E se Kate si fosse tuffata negli uomini come si era tuffata nella Senna? Incominciò la seconda settimana. In casa era Kate che dirigeva ogni cosa dall'alto. Aveva una giovane e brava governante, Matilde, felice di esserle amica. Kate si occupava meglio di Jules dei rapporti con gli editori. I compiti di Jules erano ben precisi. Scriveva i suoi libri, andava a prendere il latte e qualche provvista, passava all'ufficio postale con puntualità e buon umore. La guerra aveva ridotto notevolmente le loro entrate. Kate faceva di tutto una festa. Il bagno serale delle bambine diventava una commedia balletto variata e quotidiana, con Jules e Jim come spettatori. Ognuno dei semplici pasti era un'occasione di gioia. «La vita deve essere una continua vacanza», asseriva Kate, e tale la rendeva intorno a sé per i grandi come per i bambini. Pure quel che c'era da fare veniva fatto e bene. Aveva il culto del proprio sonno, e dormiva finché ne aveva bisogno, in ore irregolari, senza che il resto della casa ci badasse. Quando tutto andava troppo bene, quando ci si abituava troppo, le accadeva di essere scontenta. Allora cambiava tono, si infilava gli stivali, impugnava una bacchetta e come un domatore frustava tutto a gesti e a parole. Aveva una sua professione di fede, che il mondo è ricco e che qualche volta si può barare un poco, della qualcosa chiedeva perdono in anticipo al buon Dio, sicura di ottenerlo. Lisbeth esprimeva con calma un lieve dubbio su questo punto. C'erano giorni in cui Jim aveva voglia di proteggere il mondo contro Kate, come contro Odile e mai contro Lucy. Era una specie di mania. Aveva avuto voglia di proteggere la stessa Kate contro Jules prima del loro matrimonio e durante il famoso pranzo del tuffo nella Senna. Lei era di solito dolce e generosa, ma se si metteva in testa che uno non l'apprezzasse abbastanza, diventava terribile. Passava da un estremo all'altro bruscamente. Jules la desiderava ancora e soffocava quel desiderio. La capiva ora che l'aveva perduta. Quando il suo demone interiore la rendeva torturante e torturata, la compiangeva. Kate era per lui una forza della natura che si manifestava attraverso cataclismi. Sulla casa incombeva una minaccia. Nel corso della seconda settimana Jim cominciò a sapere. C'era pericolo che Kate se ne andasse. L'aveva già fatto una volta, era stata via 6 mesi e avevano temuto che non tornasse. Era rientrata a casa soltanto da poco ed era di nuovo sotto pressione. Jules la sentiva pronta a qualcosa e come quella volta dei corvi si preparava a parare il colpo. Sì, non aveva più una vera moglie e gli era penoso sopportarlo. Ma lei non aveva in lui l'uomo che le occorreva e non era donna da sopportarlo. Jules si era abituato all'idea che lei gli fosse a volte infedele, ma non ancora a quella che lo lasciasse. Il qualcosa prese corpo, e un corpo che a Jim non piaceva affatto. Albert, quello che aveva sposato la Grecia, che era stato il primo a innamorarsi del sorriso arcaico, trascorreva un periodo di convalescenza in un paesetto vicino. Kate lo aveva un po' provocato all'inizio per gioco, diceva, ma non era sempre tutto un gioco per lei. Lui ritrovava viva la statua dell'isola. Kate lo aveva incoraggiato, gli aveva dato delle speranze. Lui era un uomo tutto d'un pezzo. Ne aveva parlato a Jules. Voleva sposare Kate una volta che avesse divorziato da lui e avrebbe preso anche le bambine. Così Kate era là, regina radiosa del focolare, ma pronta a volar via. Jim pensò, non deve succedere. Jules precisò, Kate aveva avuto, per quel che ne sapeva lui, 3 amanti da quando si erano fidanzati. Uno proprio alla vigilia del matrimonio, uno sportivo, una sua vecchia relazione. Era stato un addio alla sua vita di ragazza e una rapida vendetta contro qualcosa che lui, Jules, aveva fatto e che ignorava. 3 anni dopo, alla fine della guerra, aveva avuto una storia sotto gli occhi di Jules con un giovane amico di lui, un aristocratico alto, biondo, colto, che Jim aveva conosciuto adolescente a Parigi e che gli era assai piaciuto. Mica male come scelta, pensò, sarà stato piacevole. Kate aveva dichiarato che era una cosa senza importanza. Infine, durante la sua recente e lunga assenza, aveva conquistato un signorotto di campagna, padrone assoluto nelle sue terre. Poi un bel giorno era tornata, felice fino alle lacrime di ritrovare la sua casa, che s'era messa a organizzare con fermezza e amore. Ecco tutto. Jules aveva saputo queste cose da lei stessa, un po' alla volta, a brandelli accortamente dosati e in modo da lasciar spazio all'immaginazione. Ora c'era la minaccia Albert. Jim capì che Kate continuava ad accordare a Jules dei favori parziali, ma la corrente la spingeva sempre più lontana. A poco, Jules rinunciava a lei, a tutto quel che aveva sperato dalla vita, perciò dava quell'impressione di essere un monaco. Non ce l'aveva con Kate. Jim si chiese se Kate avesse sposato Jules per i suoi soldi, ma no, ne era sicuro, per il suo spirito, la sua fantasia, il suo buddismo. Solo che Kate aveva bisogno, oltre a lui, di un maschio della sua stessa specie. Lei faceva forse, Jim era lungi dall'esserne certo, tutto il necessario per sedurre Jim. La cosa era indecifrabile. Kate svelava i suoi scopi solo raggiungendoli. Jim e Jules l'avevano soprannominata Napoleone e su questo tema composero delle poesie che le bambine recitavano. Una mattina Jim doveva andare in paese. Kate si tolse dai capelli una forcina di metallo e gliela diede, pregandolo di comprargliene delle uguali. Strada facendo, Jim si accorse che teneva la forcina fra le labbra. Kate intuì che Jules e Jim avevano parlato di lei. Disse che anche lei voleva parlare da sola con Jim e gli propose, presente Jules, una passeggiata attraverso i boschi. Camminarono dapprima in silenzio per i sentieri rischiarati dalla luna. «Che cosa volete sapere?» disse lei. «Niente», disse Jim. «Voglio ascoltarvi. Per giudicarmi, Dio me ne guardi. Io non voglio dirvi niente. Voglio farvi delle domande». D'accordo. La mia domanda è questa. Raccontate voi, Jim. Va bene, ma che cosa? Non ha importanza, raccontate. Dritto per la vostra strada, come dite voi. Jim incominciò. C'erano una volta due giovani e descrisse senza far nomi Jules e se stesso, la loro amicizia, la loro vita a Parigi prima dell'arrivo di una certa ragazza, la venuta di lei, il modo in cui era apparsa loro e quel che ne era seguito, il questa no, Jim. A questo punto Jim non poté fare a meno di dire il proprio nome e le conseguenze che aveva avuto, le loro uscite a tre. Kate poté vedere che Jim si ricordava di tutto quel che riguardava lei come se lo avesse ancora davanti agli occhi. Discusse qualche dettaglio per la forma e ne aggiunse altri. Jim descrisse il loro mancato appuntamento al caffè. «Che peccato», disse lei. «Che peccato», disse lui. E raccontò di loro tre come lui li vedeva. Disse dei tesori nascosti in Jules. «Sì», disse lei. Di come avesse intuito fin dall'inizio che Jules non sarebbe riuscito a tenere Kate. «E tutto questo me l'avreste detto in quel caffè?» «Sì, continuate». Raccontò la guerra e come aveva ritrovato Jules, il suo aspetto rassegnato, l'apparizione di Kate alla stazione in mezzo alle figlie, i 15 giorni di felicità che aveva trascorso con loro, quello che aveva visto, sospettato, il poco che sapeva della vita di Kate, la presenza di Albert e la sua proposta di matrimonio. «Siete con Jules contro di me?» «Non più di quanto lo sia lui». Jim aveva parlato per quasi un'ora. Non aveva taciuto neppure il suo fugace sospetto di un matrimonio di interesse. Tacque. «Adesso ricomincio tutta la storia come l'ho vissuta io, Kate». Kate si mise a raccontare dal suo punto di vista, in un modo più minuzioso e con una memoria più perfetta, Kate e Jules. Sì, erano stati la generosità, l'innocenza, la vulnerabilità di Jules che l'avevano incantata e conquistata, un tale contrasto con gli altri uomini. Aveva pensato di poterlo guarire con la gioia dalle crisi in cui si smarriva, ma quelle crisi si rivelarono una parte di lui. La felicità, perché lo erano stati felici, non li travolse e si ritrovarono a faccia, separati. La famiglia di Jules era stata per Kate un calvario. Il giorno prima del matrimonio, durante un ricevimento, la madre di Jules fece una gaffe che ferì profondamente Kate. Jules se ne rese complice con la sua passività. Kate punì e liquidò la faccenda immediatamente, riprendendosi per qualche ora un vecchio amante, certo Harold. Sì, amante. Così aveva potuto sposarsi con Jules alla pari, ricominciando da zero. Non aveva nascosto a Jules le sue precedenti relazioni. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.